Caio Giulio Cesare, come ricorderanno quanti di voi hanno avuto occasione di fare gli studi classici, nei suoi commentari parlava di se stesso in terza persona. Non lo faceva, va detto, per vezzo o per supponenza. Come tutti gli autori antichi, aveva problema ad attenersi al proprio modello letterario. E visto che il modello dei commentari stringe l'anabasi di Senofonte, in cui pure l'autore parla di sé in quel modo, non aveva poi molte possibilità di scelta. Anche Senofonte, d'altra parte, aveva i suoi motivi. Non si trattava di un problema di modelli, perché il genere della memorialistica militare, per quanto ne sappiamo, l'ha inventato lui, ma nelle lettere greche la narrazione in prima persona non erano ai suoi tempi particolarmente diffuse. Un personaggio poteva parlare di sé dicendo io, come fruisse dal 9° al 12° canto dell'Odissea, ma a patto che fosse debitamente introdotta in terza persona una situazione tale da giustificare un lungo racconto. Nel caso, come ricorderete, la richiesta del re dei Feaci di dar conto di sé delle proprie vicende. Gli autori, anche quando sono personaggi delle proprie narrazioni, non avevano di queste libertà, salvo forse nei prologhi. Lo vediamo, per limitarci agli storici, in Erodoto e anche in Tucidide, quando allude con molta, molta discrezione al suo sfortunato comando nella campagna di Anfipoli. E poi naturalmente Senofonte era spinto da motivazioni di carattere, diciamo così, più personale. Se interpretiamo correttamente un passaggio delle sue Elleniche, anche alla luce di un'indiscrezione del De Gloria Ateniensium di Plutarco, al capo 345i, se non mi sbaglio, lui l'anabasi l'aveva originariamente pubblicata sotto uno pseudonimo, quello di Temistogene di Siracusa, il che naturalmente significa che in prima persona non avrebbe potuto scriverla neanche volendo. La sua era quindi una scelta obbligata, e diremmo noi una scelta appropriata, perché chiunque abbia occasione di scorrere quell'interessante operetta non ha difficoltà a scoprire che a partire dal primo capitolo del libro terzo la narrazione è interamente dedicata all'esaltazione dell'opera, della sagacia, del coraggio, della preveggenza di Senofonte stesso medesimo, è una cosa che, lo ammetterete, se fatta a proprio renome avrebbe potuto suscitare qualche commento spiacevole. Per di più l'astuto ateniese ha una certa tendenza ad anteporre la sua attività a quella di Chirisofo, l'ufficiale anziano spartano che della spedizione aveva il comando effettivo, e se noi gli possiamo facilmente perdonare questo piccolo gesto di vanità, i contemporanei avrebbero potuto essere molto meno generosi. Cesare, a dire il vero, non è così prodigo di lodi verso se stesso, ma anche lui ha i suoi problemi di presentazione della materia. Deve mettere nel giusto risalto la grandezza e l'importanza della propria impresa, perché se no cosa cavolo scriverebbe a fare? Ma anche tutta la convenienza a tenersi un po' vago su certi particolari. Deve presentare le sue gesta come gloriose, sì, ma in un certo senso involontarie. Il suo problema, ideologicamente parlando, non è soltanto quello di spiegare che non è stato lui ad attaccare Pompeo nonostante l'iniziativa di passare in armi il confine del Rubicone. La soluzione in questo caso sarebbe anche facile, perché in tutte le narrazioni di guerre civili si è sempre dato per scontato che la colpa sia comunque dell'altro. Il fatto è che deve anche assicurare ai lettori che non era certamente sua intenzione quella di conquistare la Gallia. Un incarico che in effetti il Senato si era ben guardato dal dargli, e da come rappresenta lui la Gallia, poveretto, era stato costretto ad annettersela per difendersi da un improvvido sconfinamento di Elvezzi in Provenza. E capirete che quando si avanzano di queste spiegazioni è sempre buona norma tenersene un poco distaccati, e che la terza persona in un modo o nell'altro aiuta. Come aiuta sempre? Ogni volta che si desidera lodare se stessi, sottovalutare gli altri, avanzare delle spiegazioni incredibili e sottacere dei particolari imbarazzanti. E per utilizzarla in quel senso non è neanche necessario essere stati allievi di Socrate come Senofonte o discendere in linea diretta dalla Dea Venere come Giulio Cesare. Pensate al nostro Berlusconi. Anche lui parla spesso di sé in terza persona. L'altro ieri ha avuto il coraggio di dire in diretta TV che la fede e la passione europeista del presidente di Forza Italia, dell'attuale presidente del Consiglio, è indiscutibile, addirittura superiore a quella di tanti altri protagonisti della politica europea. E tutto sommato lo fa esattamente per quei motivi. E non venitemi a dire che è soltanto una coincidenza. È lui stesso che non fa che ripetere quanto fosse appassionato da giovane agli studi classici. Anni dopo,